sono loro che attraggono di più. Ecco il tuo implorare, amore ogni istante più. Ma le tenerezze che non ci scambiamo, sai, hanno qualche cosa di extraumano, credi a me. Non avrei creduto di poter provare tanta passione dentro dentro me, per quel tuo fare dolce caro che mi ha conquistata totalmente, sai.